fatto io a lei. Capisci che pagata dopo, se bene, mi raccomando, mi accogliate, dopo è pagata, va bene? Ma c'è casino, la tappa non l'ho messa positivo. E poi sto male, sto male, ma la faccio stare. Scusa, allo buco. Poi la conca, poi la conca. E io, la zona, che mi fa te. E io, quello fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. Compare, di questi porcaccioni, se io riesco a non mi pare che stronziare come cazzo, sono qua dentro, non mi pare che stronziare come cazzo, sono male, io mi sono stronziare come, dice, non mi pare che stronziare come, non credo che sono... Ma per me è di tutto.